America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The days of wine and roses, life and run. Il vino, beh, avete sentito, il vino in America, soprattutto il vino italiano in America, sta facendo, continuando a fare piuttosto bene dal punto di vista del mercato. E però c'è stato un piccolo dispetto che si aggiunge al dispetto che abbiamo avuto sulla produzione dell'olio italiano, lo ricorderete, ne abbiamo discusso qualche giorno fa, e cioè il New York Times qualche giorno fa ha scritto un articolo non esattamente positivo sul Pinot Grigio. Pensate, il Pinot Grigio a un certo punto ha invaso, è diventato il vino di moda in America, e il New York Times di fatto fa questo lungo articolo dicendo: ma insomma, questo Pinot Grigio alla fine è un po' insipido. Abbiamo fatto una ricerca con dei sommelier, siamo andati in Italia a cercare di capire se c'era qualche prodotto un po' meglio di quelli che sono distribuiti in America. Io volevo così affrontare la questione del vino in America e ho con me i microfoni di America 24 Gianni Zonin, che è il presidente dell'azienda di famiglia, l'azienda Zonin, che è una delle più importanti in Italia e a livello internazionale e nel mondo per la produzione di vino. Buongiorno, dottor Zonin. Buongiorno, eccoci. Dottore. Perché questo attacco al Pinot Grigio? Lei è produttore di Pinot Grigio, si è sentito? Assolutamente sì, da tantissimi anni ho creduto fra i primi al Pinot Grigio. Devo dire che negli ultimi 20 anni, 25, l'Italia ha fatto dei passi da gigante nella produzione di vini di qualità. E questo tutto il mondo ce lo sta riconoscendo, e l'esportazione dei vini italiani è in continua crescita e va a premiare l'impegno e i sacrifici che i viticoltori italiani hanno fatto in questi ultimi decenni. Il Pinot Grigio è stato un emblema di questo successo del vino italiano e il mercato che ha valorizzato di più questa qualità, che alle volte sembra un vino un po' anonimo, un vino un po' neutro, ma che invece ha delle peculiarità che evidentemente piacciono agli americani, altrimenti non avrebbe avuto questo successo. Noi lavoriamo per il consumatore e dobbiamo dare in modo ineccepibile i vini migliori, ma che il consumatore domanda. Poi le dirò che il vino è anche una moda. Il New York Times con questo articolo forse fa tendenza, cioè è una cosa che dannaggerà l'esportazione del Pinot Grigio qui in America, perché magari introduce una nuova moda? Come vede il futuro? Io credo che il Pinot Grigio è una varietà di vitis vinifera sicuramente radicata ormai nel consumo e nel consumatore americano. Sono anche convinto che sarà difficile continuare a crescere, probabilmente ci sarà una stabilizzazione dei consumi o una leggera decrescita per fare posto a nuovi vini, perché questa è la storia del vino. C'è una moda che cambia e ci sarà qualche altro vino che comincia a essere preferito dai consumatori. Io credo che sia in Italia, sia negli Stati Uniti, ma in tanti altri paesi del mondo, i prossimi 5-10 anni vedranno un grande successo per un vino bianco del Vermentino. E per un vino rosso? E per un vino rosso vedo molto interesse. Adesso abbiamo avuto un exploit del Nero d'Avola, stiamo avendo in questo momento un exploit del Primitivo di Manduria, ma un altro vino che teniamo con i miei enologi, con i miei agronomi molto in attenzione è il Nebbiolo. Ecco, facciamo un piccolo profilo della sua azienda, perché mi pare che lei ha circa 150-152 milioni di fatturato all'anno, 40 milioni di bottiglie, 9 aziende. Lei dice un po' la moda regionale, un po' la moda nel prodotto, ma lei ha coperto tutto il territorio, perché è un po' dappertutto quasi, in Italia. Quasi tutto. Quando c'è stato uno sviluppo importante dei vini siciliani, siamo arrivati in Sicilia, quel feudo dei principi di Butera. Adesso che vanno di moda sempre di più i vini pugliesi, siamo presenti con la nostra masseria Altemura nel Salento. Ecco, quindi siamo in Maremma, siamo nel Chianti Classico, siamo in Piemonte ad Asti, siamo nell'Oltrepò in Lombardia, siamo nel Friuli con la denominazione di Aquileia, quindi, e poi nel Veneto naturalmente, dove la mia famiglia ha origine e dove ha sede la casa. Ecco, ma soprattutto siete in America, nel senso che lei a un certo punto ha deciso di tentare un esperimento laddove il grande Thomas Jefferson aveva fallito, cioè Jefferson, che era molto amico di Filippo Mazzei, toscano vicino alla rivoluzione americana, a un certo punto si trovò con Jefferson. Jefferson era un intenditore di vino e Mazzei cercò di portare il vino in America e in particolare in Virginia. Poi non successe nulla e a un certo punto lei si è buttato in Virginia. Lei è molto presente in Virginia, ha aperto la Virginia al vino. Abbiamo un'azienda, si chiama Barbus Virginia, che sono 100 ettari a vigna, produciamo dei straordinari vini bianchi e vini rossi. Ma lei come è arrivato a scegliere appunto la Virginia? Cioè l'ha studiato? Lo stesso parallelo di Napa Valley, lo stesso parallelo della Sicilia, mi sono guardato tutti i dati climatici, il freddo, il caldo, l'umidità, eccetera, e quindi abbiamo fatto una scelta, ho anche un po' rischiato. Qualcuno non credeva al nostro successo, invece è stata una cosa straordinaria. E quindi niente California, Virginia e funziona. Abbiamo optato per la Virginia perché c'è un mercato importante dei consumi nella East Coast, che è il più importante negli Stati Uniti, è più vicino a arrivarci. Essere i primi ha sempre un suo vantaggio se lavori bene, e noi siamo stati i primi. Oggi ci sono 250 cantine in Virginia e sono nate sulla scia della nostra intuizione. Ecco, per chiudere, questo articolo del New York Times, che così focalizza, spara a zero sul Pinot Grigio, comunque su un vino italiano, secondo lei è soltanto così un po' per la spocchia del critico, o perché, come qualcuno ha detto anche nel caso del vino, c'è un complotto per cercare di contenere le produzioni italiane? Io premetto, non credo nel complotto, però lo devo chiedere a lei che è nel settore. Io non credo nel complotto, credo che quando un prodotto ha successo, come succede in tutto il mondo, c'è sempre una critica che si alza. Io credo invece che il New York Times vuole interpretare le tendenze di consumi e manda dei segnali su come può reagire il consumatore americano. Quindi sotto questo profilo io penso che il New York Times ci sta aiutando a capire meglio il consumatore, a capire meglio i consumi, e ci fa provare la direzione di nuove tendenze e quindi nuovi vini che saranno la futura moda del vino negli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo dedicato questa puntata al vino e dunque restiamo in tema. Ascoltiamo un classico di Neil Diamond, Red, Red Wine. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong and I find just one thing. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.